the blues. Partiti bene dalla ricerca della crescita o della ricrescita. Ma quando? No? All'inizio di questa stagione di Chiedo Asilo. Sì. Siamo partiti abbastanza bene, così invece purtroppo. Cosa? È morto? Purtroppo vedi che casino è successo alla regione Lazio, ad esempio. Alla Pisana. Alla? Non so, i giornalisti dicono sempre la Pisana per dire la regione Lazio. La Pisana, è come il Pirellone, capito? Sarà il nome del palazzo. Pirellone. Ma non è che la Pisana è la Polverini, tu curo. Cioè non, no, la Polverini non è di Pisa, no? È di Roma. Anzi, sta di Roma. Vabbè, sia come sia, la vicenda del crollo della giunta regionale del Lazio non è di certo uno dei buoni segnali di crescita che ci aspettavamo. Quindi. C'è stata la festa con i centurioni, le maschere dei maiali. Vabbè. Che roba lì. Però è white shot, lì mi immaginavo. Sì. Invece erano tutti con la lambada, probabilmente. Comunque. Vabbè, questa breve stagione della Polverini verrà ricordata per fortuna come un momento di grande libertà professionale, vediamolo da questo punto di vista, cioè nel senso che molti dirigenti regionali non avevano i titoli per ricoprire quel ruolo, erano proprio... E quindi dobbiamo anche dargli una medaglia. No, ma tu guardala al verso giusto, cioè venivano assunte persone non laureate senza alcuna esperienza come dirigenti, quindi gli stipendi erano intorno ai 180.000 euro all'anno. Quando mai si è visto un atteggiamento così egualitarista? No, non ti capisco. Ma no, egualitarista, insomma, se il povero Salvatore Ronghi non aveva potuto studiare e laurearsi, che colpa ne aveva? Era di un quartiere disagiato, la Polverini appartiene alla destra sociale e quindi sta dalla parte della povera gente, non dei laureati fighetti della LUIS. Sì, ho capito. Ma chi Roma è Nord? Salvatore Ronghi intanto? È il segretario generale della giunta del Lazio. E perché l'ha messo lì? Perché prima era un sindacalista, collega della Polverini, un uomo del popolo, capito? Sindacalista. Ma scusa, sul curriculum Ronghi cosa c'ha scritto? Collega della Polverini? Immagino di sì, il resto evidentemente non contava. Quindi dai, mettiamola così, K. L'American Dream è diventato il Lazial Dream. Un dream in cui anche io e anche te possiamo diventare presidenti degli Stati Uniti. Ops, rettifico, segretari generali della giunta regionale. Però è meglio presidente degli Stati Uniti. Sì, però Ronghi e Batman, te li vedi? Presidente, vicepresidente. C'è sta un chioschetto d'hamburger giù in Virginia, i tramezzini, i grattacheck, quello che te pare. Andiamo, te lo raccomando, questo è un lavoro per Batman. Er Batman! E ora, bambini, ricreazione! Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage this. I tell you, brother, you can have one without the other. Bambino Alberto, allora tu ci hai detto che sei grande, ci pare di aver capito questo, no? Quindi vuoi essere trattato alla stregua di un adulto. Sì. Bene, allora, secondo noi dovresti impegnarti da oggi in una lotta importantissima. No, ma quale lotta? Ma dove vuoi arrivare? No, una lotta che stranamente ancora nessuno ha pensato di intraprendere, però è una lotta che potrebbe davvero significare un grande passo avanti per tutta la civiltà e l'umanità. La Madonna, ma che cos'è? Avete presente le nozze gay? No, ma adesso cosa c'entrano le nozze gay? Come drago? Cosa c'entrano? Sono l'argomento principale, ad esempio, di diatriba all'interno del PD, litigano solo su quello, ed è anche dibattito negli Stati Uniti, quindi si parla di nozze gay dappertutto. Anche Pisapia pensa alle nozze gay, intanto Milano diventa scampia. No, questo è un titolo bar. Ah, no. Sì, sì, di un giornale, no, di un giornale da bar. Ecco. Ho capito, ma io, cioè, cosa c'entro io con le sposalizie, con i matrimoni? Cosa c'entro io con le nozze? Soprattutto con le nozze gay, cioè. No, allora, sposta l'attenzione solo sulle nozze. Infatti. Ti sei mai chiesto perché i bambini non hanno il diritto di sposarsi? No. Tu non vorrei... Ecco, come no? Vedi come sei? Ma cioè, lo spaventi, allora, sei un grande, allora devi assumerti tutte le responsabilità, devi avere anche i diritti degli adulti, cioè il diritto di poterti sposare. Ma no, no, e poi con chi? Appunto, ma con chi? Ma di cosa stai parlando? Cosa c'entra con chi? Non importa, con chi? Bambino Alberto, come non sono... Non importa? Ma no, non importa. Come non importa? Importa sì! E poi non ne voglio sapere di sposarmi. Ma ha ragione, i bambini hanno la fortuna di potersi non sposare e tu vuoi togliergli questo privilegio. Ma, no, ma allora, scusate, ma perché i gay stanno facendo così tanta pressione per potersi sposare? Addirittura Vendola dice che vuole andare in Spagna a sposarsi, cioè... Sei sicuro? Cosa del genere, sì. Ma io non sono interessato a sposarmi. A me non piacciono le bambine, cioè... Allora, se non ti piacciono le bambine, giusto, tra le nozze gay e le nozze bambine riusciamo a combinare il motivo, il modo in cui tu potrai sposarti col tuo migliore amico, tipo con Gildo, no? No, cosa ci sposiamo? Sì, perché no, dai. Ma che voi cosa avete capito? Non è che non mi piacciono le bambine e non mi voglio sposare. Non mi voglio sposare perché ho l'esempio dei miei genitori. I genitori, insomma. Cosa vuol dire? Bene, i tuoi genitori sono. A parte tuo padre agli arresti domiciliari, mi sembra a parte che vada la madre che va col maestro di giugno. Vabbè, ma sono quegli incidenti sbandamenti. Tra l'altro, qual è una delle cose? Cioè, il papà e la mamma. La mamma! E la mamma. E nel caso, in caso tuo, lì va a fortuna, no? Questo va a parare su Milfia, la madre immaginaria del bambino. E tua mamma è una signora, non so perché, no? Vabbè, la sposeresti, la signora Milfia, tu? Beh, signora Milfia, guarda, io adesso sposarmi per me è prematuro. Però è un tipo di... Ecco, ma scusa, tu adesso dici ste cose davanti al tuo amico immaginario Gildo che vuoi sposare sua madre? No, sì, no, cosa dici? Non ho detto così esplicito, lui capisce solo le cose... Sposare. Poi cosa fare? Diventeresti il patrigno di Gildo. Sì, il padre di Gildo. Patrigno. Vabbè, però lui chiamerebbe papà a quel punto. No, no, papà no. Papà! No, no, che papà, allora. Papà! Ma no, il tuo papà! No, adesso ti hai. No, stai tranquillo, non sono io il tuo papà, hai capito? Papà! Papà! No, e che papà? Poi ti ricordo qua, il grano non ce n'è. Papà! Mancano 85 giorni alla fine del mondo. Chiedo asilo. E questo è l'inconfondibile sound del venerdì. Perché oggi siamo arrivati alla fine di una settimana. Perché oggi è venerdì. Quel cazzo sai che fine fa? Fa un po'. Vedo che però ti sei ricordato il venerdì, perché questa settimana hai fatto il Mardi Gras di mercoledì. No, ecco. Cos'è che abbiamo fatto? Non importa. Hai fatto anche ieri il giovedì. Venerdì. Hai fatto anche ieri. Smettila di pensare a quello che è passato. Pensa al venerdì. Mi hai gabbato. Gabba. Mi hai cappato. Gabbato. Marco Cappato. Salutiamo e ringraziamo Marco Cappato che... Sì, io lo saluto e lo ringrazio volentieri, però non ha fatto niente per chiedo asilo. Salutiamo Pietro Lacorte, Laura Faggin. Sì, adesso Pietro Lacorte deve dirci, chi se ne frega per interfono, ancora quegli Pietro altri da ringraziare. Ah, ecco, sì. Tipo Alessandro Marco Tulli e Matteo Gomez, va bene. Comes, Alberto Caserini, Guido Bertolotti e Salvatore Iorio. Ma comes nel senso di mangi in spagnolo? E da viene, è da come? È come manges. Manges. E te mangi il pollo chicharrón. È da bueno. E da viene. E da viene, bueno, chicharrón. Signora Sánchez. Se lo va a pegar tu culo, señora Sánchez.